Tempo di sport con Carlo Genta. Hello? Massimo. Florentino. Come stai? Bene, grazie. Posso parlare italiano, se adagio? Sì, disculpami per l'interruzione. No, figurati, grazie invece di aver chiamato. Chiedo scusa, ero purtroppo in una cosa pubblica di Milano e quindi dovevo essere, era una cosa ufficiale e quindi ero... Solo quería decir si arreglamos el tema de Mourinho esta noche. Sí, bene. Esta noche, ma come se puede far? Via telefono o via anche sí. Via se... Via telefono e yo telefonaré a ti. Va bene. Entonces, ¿qué hora te viene bien? ¿8? ¿Te viene bien? ¿Las 8? Va bene, a las 8 va bene. Vale, espero que no haya ningún problema y que esté todo resuelto. Esperemos que sí. Yo estoy dispuesto a llegar a un acuerdo, Máximo. Va bene, vediamo poi stasera con calma cosa si può fare. Va bene. Va bene, e se quieres algún tipo de intercambio de jugadores, hablamos. Se puede fare attraverso anche la visione, una chiacchierata con il. Se ha la possibilità, la teleconferenza. Sì, sin ningún problema. Desde el Bernabéu lo ponemos. Puede fare la teleconferenza e do i segnali dove farla. Sí, perfectamente. Yo cuando te llame, tenemos la teleconferencia, tenemos la ADSL, tenemos todo. Allora bene, puedo llamar una secretaria que conoce para hacer la teleconferencia a la hora que vogliamo. Sí, perfecto. Lo digo a la mia secretaria, va bene. Perfecto, entonces directamente me aseguras que ya está todo cerrado, ¿no? Te aseguro que he parlato con Mourinho ieri sera, ma adesso bisogna parlare noi. Vale, esperemos. Pues perfecto. Oye, Massimo, disculpa la interruzione, luego no. Un abbraccio molto forte. Grazie. Ciao Massimo, ciao, al massimo rispetto. E questo, secondo me, è lo scherzo telefonico meglio riuscito della storia del calcio. Massimo Moratti e Florentino Perez. Massimo Moratti era quello vero, Florentino Perez non era quello vero, era un altro Perez. Però resta lo scherzo telefonico, andato in onda su Cadena Ser, meglio riuscito nella storia del calcio. Innanzitutto buongiorno a tutti. Turnover estivo, vi toccherà supportarmi anche da lunedì a giovedì, fino, oltre che venerdì, sabato e domenica, fino al 4 di giugno, poi tornerà Gigi Garanzini e poi ci saranno i mondiali. E lì avremo modo di presentarvi la programmazione speciale che vi offriremo. Saluto dalla Spagna, Filippo Maria Ricci. Ciao Filippo. Buongiorno. Attrezzato di scarpe da ginnastica e tuta oggi per correre dietro a Florentino Perez, quello vero, immagino. Sì, anche io sono quello vero. Sei quello vero, no? Sì, oggi abbiamo corso dietro a Florentino inutilmente. Perché? Non ha voluto dire nulla su Mourinho, io penso ha ragione, sono già state dette troppe cose e quindi adesso meglio rallentare, meglio chiudere prima di parlare. Moratti invece ha detto poco fa, un po' scocciato, non è previsto nessun incontro con Mourinho e ha invitato i giornalisti a impiegare meglio il loro tempo, queste le parole le uniche di Massimo Moratti. Ha ragione per me, perché voglio dire adesso se uno guarda la situazione, l'Inter vince la Champions League dopo 45 anni, si parla solo di Mourinho. Mourinho non ha aspettato neanche un minuto, cioè aveva ancora la coppa in mano e già era davanti a tutte le televisioni a dire che se ne sarebbe andato, e dopodiché ha fatto lo stesso anche Diego Milito. E voglio dire, qua c'è ancora un allenatore che è stato assolutamente calpestato, che è Manuel Pellegrini. La festa dell'Inter è passata in secondo piano perché si parla solo di Mourinho e Real. E io penso che l'arrabbiatura di Moratti sia legittima, arrabbiatura o comunque la scocciatura. Sì, certo, certo Filippo. Vedo notizie di una giunta direttiva del Real Madrid convocata oggi pomeriggio per le 18:30. Ecco, esatto, perché finalmente probabilmente qualcosa si muove. Ovvero Pellegrini, almeno mandano via Pellegrini. Sì, ma gli era chiesti i soldi anche lui, almeno per il danno morale di questi giorni, questo trattato un po' comunque come lui c'ha ancora burattino. un anno di stipendio, sì. Un anno di contratto e quindi prenderà, alcuni dicono 4, altri 5 milioni, insomma comunque prenderà quello che doveva prendere, quindi almeno facciamo una finita con questa farsa, perché lunedì qua Marca è uscito con uno scampolo di intervista a Mourinho presentandolo come la prima intervista del nuovo allenatore del Real Madrid. Cioè, senti, come lo vedresti uno scambio di allenatori tra Inter e Real Io Madrid? Bene. Pellegrini Io all'Inter? Bene. Sì, è chiaro che voglio dire, verrebbe, diciamo, arriverebbe lo scarto del Real Madrid. Però mi sembra che l'Inter con gli scarti quest'anno è andata bene. Tra Lucio buttato via dal Bayern Monaco, Sneijder svenduto da qui Eto'o, messo alla porta da Guardiola, mi sembra che siano stati tre persone importanti per la conquista di questa Champions. Sì, anche perché Pellegrini, tutto sommato, lo rivolevano tutti, mi sembra, lì a Madrid, no? Almeno i soci, almeno i tifosi, almeno gran parte dell'ambiente madridista avrebbe voluto una riconferma di Pellegrini. E poi c'è una cosa, ho un paio anche. Una, Pellegrini parla benissimo italiano. E secondo, avrebbe probabilmente voglia, no? Di ripartire in un certo modo. E poi a me ricorda un po', a me sembra un Moratti allenatore, nel senso che è un gentiluomo, persona educata, diciamo simpatico, con un certo stile. Ho qualche dubbio, voglio dire, io l'ho visto qua quest'anno e nelle partite importanti mi sembra che sia un attimo mancato. Però voglio dire, è stato sempre con le spalle al muro qui, aveva un giornale che lo attaccava un giorno sì e l'altro pure, importante, e lo vorrei vedere in un ambiente diverso. Sì, per chiudere Filippo, avremo modo nel corso dell'estate di parlare del calcio di Mourinho, che non è esattamente il calcio del Real Madrid. Questo può essere un altro piccolo o grandissimo problema. Io prevedo problemi in campo e fuori. Perché non so quanto poi Mourinho si renda conto di dove arriva, non ovviamente a livello di club, come si dice qua, non di club, ma a livello di stampa, a livello di gestione dei rapporti tra la squadra e la stampa, l'allenatore e il presidente, possono esserci problemi in questo senso. E poi comunque il Bernabéu è uno stadio che esige un certo tipo di calcio che diciamo Mourinho non pratica. Io sono stato con lui al Chelsea tanti anni, poi all'Inter si vince in casa, vince tutte le partite o non perde, però qui vogliono altre cose. Grazie Filippo, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a Filippo Maria Ricci, con cui abbiamo aperto questo programma. Poi continuerò a portarvi in giro per l'Europa, perché è previsto anche un collegamento con l'Inghilterra per capire qual è la situazione di Capello e per capire altre due o tre cosucce interessanti di mercato. Intanto De Rossi ha appena detto: spero che Capello non vada all'Inter perché è un allenatore vincente. Dunque, con Franco Piantarini in redazione, Filippo Oreggio in regia, vorrei continuare a portarvi in giro per l'Europa. Ho un sacco di sms, ma preferirei, poi magari ve li leggo, però preferirei parlare con voi a voce. 800 24 00 24 è il numero verde. Dunque, in Inghilterra, come anticipato, Lorenzo Muso, buongiorno. Buon pomeriggio. Cosa scrive oggi in Inghilterra a proposito dell'affaire Capello-Inter? Ma in realtà si scrive gran poco qui del futuro di Capello come allenatore dell'Inter. Soltanto un giornale, l'Evening Standard, ha riportato la notizia della Gazzetta, insomma, che rimbalza da giorni ormai in Italia, secondo cui appunto Capello dovrebbe lasciare dopo il Mondiale la nazionale inglese per trasferirsi e tornare a Milano. Qui in realtà le indicazioni che abbiamo anche noi, insomma, sono di segno opposto. Capello 2 settimane fa ha fatto togliere dal suo contratto una clausola che gli avrebbe consentito nelle 2 settimane successive al Mondiale di discutere con altri club o nazionali per eventualmente appunto rescindere unilateralmente il contratto che lo lega fino al 2012 con la Federcalcio inglese. Una scelta, quella di Capello, per ribadire insomma la sua lealtà alla Federcalcio inglese. Capello anche nei giorni scorsi ha ribadito più di una volta che vuole restare a Londra fino agli europei del 2012. Poi dopo c'è stato probabilmente una sorta di misunderstanding nel corso della conferenza stampa successiva all'ultima amichevole dell'Inghilterra contro il Messico lunedì sera, quando appunto un cronista gli ha chiesto di queste voci sull'interessamento dell'Inter. Lui ha detto: beh, è una cosa che mi piace, però sono interessato soltanto alla Coppa del Mondo. Mi è sembrato di capire che la risposta di Capello fosse più che altro un modo per ribadire che sì, ovviamente queste voci fanno sempre piacere, ma che comunque lui è intenzionato a restare a Londra. Ripeto, anche nelle dichiarazioni precedenti Capello ha sempre detto di trovarsi molto bene a Londra, di voler restare alla guida dell'Inghilterra, a meno che non lo licenzino. È molto improbabile che lo licenzino. Beh, deve andare fuori al primo turno ai mondiali. A questo proposito, Lorenzo, volevo sottolineare un elemento. Insomma, sarebbe molto difficile dal punto di vista della tempistica gestire in questo momento un ingaggio di Capello da parte dell'Inter, perché eventualmente si potrebbe fare annunciare solo nel giorno dopo l'uscita dai mondiali dell'Inghilterra, no? E da qui a là cosa facciamo? Ogni giorno il balletto davanti alla sede della Saras per parlare con Moratti e chiedere chi è l'allenatore dell'Inter? La vedo un po' difficile. E d'altra parte non si può anche perché, scusa, dimmi. Ti interrompo, ma Capello in questi giorni è in Austria per il pre-ritiro mondiale, insomma, quindi è braccato dai cronisti, mi sembra molto difficile che lui si possa, poi il 2 giugno partirà per il Sudafrica, è vero che i contratti vengono, come dire, gestiti dagli agenti, procuratori, eccetera, ma credo che anche un contatto diretto tra i diretti interessati, quindi Capello e Moratti, sia indispensabile, e da qui fino al momento in cui l'Inghilterra resterà impegnata nei mondiali è improbabile anche che le parti si incontrino, si parlino, si pianifichino il futuro. Mi sembra, come dici giustamente tu, che proprio anche una questione tempistica giochi contro questo possibile passaggio. Sì, un'ultima cosa, Lorenzo, si legge oggi sui siti soprattutto che Mourinho, da allenatore del Real Madrid, vorrebbe, cosa che ancora non è, vorrebbe fare un po' di shopping in Inghilterra, e ci sono i nomi di giocatori del Chelsea, Essien ed Ashley Cole, ti risulta? Quello che so io è che l'unico giocatore che Mourinho vorrebbe prendere dalla Premier League è Steven Gerrard. È l'unico, anche perché lo stesso Gerrard, tra l'altro, negli ultimi giorni ha lasciato intendere che il suo futuro a Liverpool non è così sicuro, i rapporti con Benitez si sono un po' deteriorati, e quindi lui probabilmente prenderebbe anche in considerazione l'ipotesi Real Madrid. Certo è però che nella lista di Mourinho Gerrard non è al primo posto per il centrocampo, perché ho parlato con un collega proprio nei giorni scorsi, che è molto legato a Mourinho, la prima scelta di Mourinho per il centrocampo è De Rossi. Quindi se non riuscisse ad arrivare a De Rossi, a quel punto chiederebbe a Perez di puntare su Gerrard. Per quanto riguarda invece i giocatori del Chelsea, né Lampard, né Essien, né Ashley Cole sono gli obiettivi di Mourinho per appunto il Real Madrid. Quel De Rossi che, ripeto, ha appena detto spero che all'Inter non vada Capello, perché Capello è un vincente. Grazie a Lorenzo Amuso da Londra, naturalmente ci sentiremo, avremo modo di sentirci nei prossimi giorni, perché sono tutti fronti molto caldi. 800 24 00 24, comincio a parlare con gli ascoltatori ben volentieri. Giovanni dalla provincia di Napoli è il primo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Vorrei fare questo titolo, vedere se le piace. Dice mai da Mourinho. Dal trivela alla tripleta. Questo per dire che a volte nella vita ci vuole anche fortuna. Sì, è bravura. Sicuramente, però la fortuna a Napoli, diciamo, ci vuole fortuna anche per fare la prostituta, quindi. Sì, sì, ma non c'è dubbio. Bene. Ci vuole fortuna per qualunque cosa, dica. Infatti, poi ho trovato stucchevole le motivazioni che ha addotto Mourinho per andare via, proprio stucchevoli, proprio. E l'ultima cosa, quella maglia di Materazzi della prima azione è stata di poco disgustosa, perché magari. Sì, non è stata elegante, ma se ne è parlato, guardi, secondo me se ne è parlato anche troppo di quella maglietta di Materazzi. E ricordo sabato sera, mentre insomma l'Inter stava per alzare, nemmeno aveva alzato, stava per alzare la Champions League, nello speciale che abbiamo fatto, le prime 4 telefonate sono state su una maglietta di Materazzi. Per parafrasare Moratti, sarebbe opportuno impiegare meglio il nostro tempo, anche telefonico, insomma, mi pare, questa è una mia idea. Detto questo, è stata inopportuna, punto. Risveglio, mi pare che si chiami così, da Forlì, buongiorno. Sono io. Buongiorno. Pronto? La sento non benissimo, ma la sento. Se poi mi spegne la radio, la sento forse meglio. Sì. Buongiorno, senta. Buongiorno a lei. Senta, ma le voglio chiedere, ma lei sinceramente sarebbe caduto nello scherzo fatto dal giornalista Moratti? Perché si sente benissimo che è una voce non di una persona di oltre 60 anni, ma di un trentenne, di un giovane. Quindi, voglio dire, io in un primo momento pensato allo scherzo sia di chi ha chiamato sia di Moratti che ha ricevuto. Però, ma sono, anche lì sono per tornare sull'argomento bravura e fortuna di cui sopra, sono stati molto bravi e molto fortunati i colleghi di Catena Sera, anche perché quello che parlava mi risulta sia l'imitatore ufficiale di questa radio spagnola, dunque immagino che, insomma, non penso che sia una montatura, ecco, tanto che Moratti ha dato l'autorizzazione, ovviamente gli hanno chiesta perché è necessaria, e Moratti ben volentieri e con sorriso sulle labbra ha dato l'autorizzazione a mettere in onda quanto abbiamo sentito prima. Un'ultima cosa ne dice, può essere vero della trattativa Ibrahimovic al Milan? L'ho sentito anch'io, ma il Milan mi sembra che in questo momento sia un po' prematuro parlare di trattative per giocatori, mi sembra sia una confusione pressoché totale. Si sa, si legge la notizia, i relative smentite sull'affare Gazprom, insomma, mi sembra che sia tutto in alto mare. È un po' complicato dire in questo momento che il Milan possa arrivare ad Ibrahimovic. Se teniamo per buona la smentita, la risposta è no, perché sappiamo bene qual è la politica della società e che non verrà cambiata. Zero investimenti, certo è che Ibrahimovic in questo momento viene via a prezzo di saldo, quindi l'affare del Barcellona si è un po' deprezzato, affare di 10 mesi fa, nemmeno 12, forse qualcosa meno. Mi sembra prematuro però, un giocatore che ha un ingaggio pesantissimo, che comunque costerebbe parecchi soldi che il Milan, stando così le cose a oggi, non vuole spendere, tenendo per buone quelle smentite di qui sopra. Lorenzo da Catania, poi ci fermiamo per la borsa. Lorenzo? Sì, sono qui. Mi spenga la radio e poi parliamo. Grazie. Pronto? Eccoci. Spento la radio. Benissimo. Dica. Posso parlare? Certo. Benissimo. Io sto ancora ridendo per la feroce trappola che hanno fatto al signor Moratti. Ma no, ma feroce, ma abbastanza simpatica direi, no? Tanto che è piaciuta. No, io mi chiedo a questo punto come poteva pretendere il signor Moratti di vincere gli scudetti ante 2006, se è così gnoccolone come direbbe la sorellella. Da cadere in una, a parte il fatto che non sa neanche parlare lo spagnolo, un industriale come lui, comunque volevo dire che avrebbe fatto meglio, vede, è stato anche ingenuo nel caso di Mourinho, pur sapendo che l'avrebbe trombato Mourinho, e l'ha tenuto, io l'avrei tolto dalla panchina della finale. Ma non nella maniera più assoluta. Mourinho ha portato l'Inter dove l'ha portata. Evidentemente non è stato un segreto quello svelato da Mourinho negli spogliatoi, perché Moratti lo sapeva meglio di tutti gli altri, lo sapevano i giocatori, come è stato confermato peraltro da Materazzi ieri. Insomma, per quanto mi riguarda, da un po' di tempo, ripeto, quella che era un'impressione fondata e che poi si è rivelata confermata di Mourinho, che avrebbe lasciato l'Inter, lo ripeto da qualche tempo, non vedo questo, non avrei condiviso questo pugno duro cui lei fa riferimento di Mourinho via dalla panchina, ma scherziamo. È una questione molto differente questa. Adesso Moratti fa benissimo a pretendere quanto scritto dai contratti e non vedo perché non dovrebbe farlo. Detto questo, la scelta di Mourinho è stata quella di andare al Real Madrid. È una scelta, se vogliamo, anche coraggiosa, perché sono in tanti quelli che dicono vinco e poi vado, poi quelli che lo fanno sono un po' di meno. Anche le agenzie confermano, 18:30, giunta direttiva del Real Madrid, parlerà Florentino Perez, secondo le fonti, insomma, dovrebbe annunciare la rimozione di Manuel Pellegrini e chissà, magari ufficialmente l'ingaggio di Mourinho questa sera nel tardo pomeriggio. State di un sacco di fregnacce, l'Italia va a rotoli e voi parlate di 4 miliardari, piagnucoloni e privilegiati. E lei, caro ascoltatore, che non si firma su questo SMS, fa invece della demagogia gratis. 800 24 00 24 è il numero verde. Tra poco ricominciamo a parlare con gli ascoltatori. Mario Moreno, Simone già in linea, ma prima vorrei proporvi una digressione, perché il 17 di giugno, giorno in cui in Sudafrica si giocheranno Argentina-Corea, Grecia-Nigeria e Francia-Messico, quel giorno sarà il 40° compleanno cifra tonda, dunque, della partita più cinematografica di sempre. Non può che essere Franco D'Assisti, che per noi è il signor Rosa Purpurea, come ben sapete, gran maestro di cerimonia, oggi a Milano per una celebrazione particolare. Per come, dove e quando, Franco D'Assisti, buongiorno. Ciao, ciao Carlo, un saluto a tutti gli amici di Radio 24 in una sede, diciamo, diversa dalla solita, da quella consueta, e radiofonicamente e anche fisicamente, perché io vi parlo qua dall'atelier Gluck, Spazio Arte, che è a Milano in via Gluck, anche questa è una via che ha dei rimandi, sì, canori, mica da ridere, diciamo così, e al 45 di via Gluck sorge questo spazio multifunzionale nel quale si inaugura proprio oggi alle 18 un tributo, non voglio chiamarla pomposamente mostra, ma insomma, sì, un tributo, un sentito e sincero tributo a quella che è stata la partita forse più emozionante, non so se più bella, Gianni Brera non sarebbe stato d'accordo. Però più cinematografica di sicuro, Italia-Germania 4-3, no? Sicuramente, anche perché poi è diventato un film di tutti i tempi, che è stato Italia-Germania 4-3, una delle partite che si ricordano sempre con il risultato, no? Come se fosse un appiccicato proprio, sì, al titolo del match. Italia-Germania 4-3, 40 anni fa, l'hai detto bene tu, il 17 giugno, e noi abbiamo pensato che anche in un momento in cui la gente avrà la testa al mondiale giocato, però forse bisognava farlo questo salto all'indietro per capire che cosa è rimasto di quel mondiale e rendersi conto che è rimasto moltissimo. È una partita che è rimasta dentro la nostra memoria, una partita che forse potremmo dire non è mai finita in realtà. Sì, è vero. Ed è un mondiale, quello di Messico 70, più ampio di un semplice mondiale. È stato il primo mondiale dell'era moderna, in qualche modo, il primo mondiale a colori, il primo mondiale con i cartellini gialli e rossi, il primo mondiale con le sostituzioni. Pensate quante prime volte, no, per Messico 70, possiamo forse proprio fissare lì, allo Stadio Azteca, la nascita del calcio moderno, per come forse continuiamo a intenderlo anche oggi. Certo, e oggi cosa succede, Franco? Cosa c'è lì e cosa succede? Allora, succede che alle 18 inauguriamo la mostra, che sarà aperta fino al 6 giugno qui allo Spazio Gluck, e poi si trasferirà durante il periodo dei mondiali, dall'11 giugno all'11 luglio, allo Spazio Oberdan in centro a Milano, in Porta Venezia. Succede che verrà Gianni Rivera, l'autore del gol della vittoria, l'autore del gol 4-3, insomma, un uomo che non finiremo mai di ringraziare per quel gol, e insieme, oltre a visitare i cimeli, le figurine, i dischi, le prime pagine dei giornali, e tutto quanto, il pallone firmato da Pelé, la replica della Coppa Rimé, e tutto quanto è davvero esposto qui in questo allestimento, rivedremo insieme a Gianni Rivera i tempi supplementari di Italia-Germania, e quindi cercheremo di commentarlo, sempre per usare un altro paragone cinematografico, come si fa con i DVD quando vediamo i film ascoltando il commento del regista. No? Noi, sì, vedremo il film di quella partita commentato dalla mitica voce di Nando Martellini, dei supplementari, perché la partita sarebbe troppo lunga, e faremo però delle domande dal vivo a Gianni Rivera per farci fare un po' la lettura del dietro le quinte di quello che si viveva in quei momenti. Per esempio, quando prese il gol del 3-3 sul suo palo e Albertosi si girò verso di lui come per ammazzarlo, e vorremmo sapere che cosa gli ha detto, per esempio. Quindi un po' di dietro le quinte dovrebbero essere svelati stasera. Fantastico, buon lavoro. Grazie Franco. Grazie Carlo. Grazie Franco D'Assisti. Torno invece, immagino, su temi più prosaici a parlare con gli ascoltatori, ma lo faccio estremamente volentieri. Mario, provincia di Venezia, buongiorno. Buongiorno a lei. Ascolti, io volevo fare una mia considerazione, dopodiché le faccio una domanda che io spero lei possa trovare simpatica, è una domanda assurda. Sì. La mia considerazione è questa: innanzitutto Moratti, io penso sapesse molto bene già da 3 mesi, come ha detto lei, che Mourinho avrebbe lasciato. Secondo, sì, me si è già preso per tempo, e secondo me verrà a capello, e le dico anche questa, che l'Inter non verrà lasciata sola nel momento dei mondiali, perché c'è un signore che si chiama Franco Baresi, che è stato 2 anni insieme a Mourinho, e io credo, sì, che qualcosa l'abbia carpito. Sì, però Mario, non è anche una questione proprio di diplomazia, cioè nel senso, oggi non si può dire che Capello va a allenare l'Inter, perché sennò in Inghilterra c'è della rivoluzione, via tabloid, via tutte le vie che volete, ma è una cosa che non si può fare. Da qui a là, come spieghiamo e come spiegano, come potrebbero spiegare chi è l'allenatore dell'Inter? Cosa dicono? Non abbiamo ancora deciso? Potrebbero portarla avanti così, anche se ritengo dura, che mi sembra assurdo. Dura. Mi sembra dura. Poi? Una domanda simpatica, visto che lei so che spazia in tutti gli sport, io invece no purtroppo, ma un eventuale Zanetti ciclista, su che tappa potrebbe essere avvantaggiato, su che tipo di circuito, così. Perché immagino non potrebbe vincere il Giro d'Italia, ma secondo me una tappa magari quella a lui più appropriata forse. E secondo me, non lo so, ma secondo me con quelle gambe può fare lo sprinter. Io credo con quelle gambe possa fare lo sprinter. È vero che hai i polmoni da scalatore, però gambe da pistarda, Saverio Zanetti. Un giorno di questi lo chiediamo per Augusto Stagi, così le faccio avere anche una considerazione un po' più tecnica della stupidaggine che ho appena detto. Magari mi dice esattamente il contrario, non lo so. Moreno, provincia di Milano, buongiorno. Dottor Genta, buongiorno. Salve. Sono juventino e permetto subito che Mourinho non mi è simpaticissimo. Però lo reputo così bravo questo allenatore che secondo me se quest'anno invece di avere Zaccaroni dopo e Ferrara prima fosse arrivato alla Juventus, noi saremmo arrivati quantomeno pari al Milan, perché secondo me come allenatore è veramente bravo, come motivatore lo è anche di più. Sì, sono d'accordo. E poi io continuo a ripetere, a costo di prendermi tutti i fulmini del caso, che di un allenatore di questo tipo la Juventus aveva bisogno non solo sul campo ma anche fuori. Per ridare anche un allenatore scomodo, anche un allenatore accentratore come Mourinho, insomma la Juventus in questo momento storico ce l'aveva bisogno. Poi evidentemente non poteva avere i denari e magari neanche la PIL in questo momento per prendere Mourinho. Simone da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. E l'ascoltatore di prima di Milano mi ha tolto un peso dal cuore, perché io sono fiorentino, tifoso interista dalla nascita. Ah. Se tiro un milanese, tifoso juventino, avendo Milan e Inter lì a portata di mano, è peggio di me. Ma no, ma ce ne sono tanti. Dica. Senti, no, volevo una precisazione sul discorso prima che ho sentito di Pellegrini. Era da quando ho sentito dire che Mourinho vuole andare al Real che penso questa cosa. Perché Pellegrini mi sembra che sia un allenatore molto molto convinto e con gli attributi per le mosse che ha fatto quest'anno il Reale. Se non ha vinto è stato anche perché ha trovato davanti un Barcellona strepitoso nelle ultime giornate, un po' come la Roma con noi, diciamo. Quindi io non lo vedrei male, anche perché poi Mourinho è una persona che ha dato una impronta all'Inter, una mentalità già anche dai campi sportivi ha modificato su Appiano. Trova un impianto e una struttura già. E un allenatore come Pellegrini avrebbe una gran sete proprio di vittoria, forse sarebbe positivo per tramandarla a questi giovani che devono crescere, perché ora bisogna cercare di investire sui giovani. Giovani cioè non ce n'è tantissimi, cioè ci sono, ma l'Inter abbiamo detto in questi giorni, abbiamo detto più volte, no? È una squadra piuttosto in là con gli anni, no? È una squadra che secondo me avrebbe bisogno di un profondo ricambio. Con calma, non tutto è subito, però insomma andato via l'allenatore, chiuso in qualche modo, modo splendido peraltro, un ciclo, forse bisognerebbe cominciare da zero a scrivere una pagina totalmente bianca. Io continuo a pensare che comunque in questo momento all'Inter serve un allenatore che conosce la strada per arrivare in alto in Europa, conosce tutte le strade del calcio internazionale. I nomi sono quelli che si leggono sui giornali. Molto stuzzicante resta quello di Guardiola, che credo anche il più irraggiungibile di tutti, però non è mai detto. Come sappiamo è periodo elettorale per il Barcellona, anche se chi sarà il nuovo presidente ha già detto Guardiola con me per tutto il mandato, ci mancherebbe altro. Ma io credo che lo stesso Guardiola, guardate, i grandi allenatori, così come Mourinho dice: qui ho finito il mio lavoro, voglio andare al Real Madrid a farne un altro diverso, continuare per ambizione personale, e non l'ha nascosto, a scrivere un'altra pagina di storia. Anche per Guardiola servirebbe prima o poi un cambio di ambiente. Lui è il Barcellona, è l'uomo del Barcellona, lì è nato, cresciuto, lì ha scritto tutte le pagine possibili. Credo che per diventare davvero uno dei più grandi o forse il più grande allenatore del mondo debba cominciare a scrivere qualcosa di simile anche da altre parti. Questo lo sa benissimo pure Guardiola. De Rossi, oltre ad aver detto che spera che Capello non vada all'Inter, che Capello è un allenatore vincente, ha detto anche altre cose abbastanza interessanti e cose soprattutto che faranno chiacchierare e che faranno rispondere, immagino, Rosella Sensi, come ha già fatto. Ebbene, De Rossi ha detto che insomma, se la Roma accettasse un suo trasferimento al Real Madrid, abbiamo sentito prima che dovrebbe essere in cima alla lista dei desideri di Mourinho nel momento in cui ufficialmente diventerà allenatore del Real. Ebbene, De Rossi dice: se la Roma accettasse me ne andrei al Real Madrid naturalmente, se la società mi dicesse che c'è una necessità economica o anche tecnica io andrei. Ad amici, conoscenti, procuratore ho detto di non rompermi le scatole, ora voglio pensare alla nazionale. Rosella Sensi è stata molto coerente, continua De Rossi nel rispedire al mittente qualsiasi discorso. Finché non mi cacciano io rimango qui, anche se cacciare è una parola grossa. Se alla società dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile non sarebbe per me sacrificio né gesto d'amore andare al Real. Queste le parole di De Rossi. Naturalmente riguardo la telefonata di prima, Errata Corrige, non è Franco Baresi ovviamente il vice allenatore dell'Inter, ma è Giuseppe Baresi, lo sappiamo tutti. C'è anche chi scrive: sono tra quelli che pur avendo amato Mourinho ritengo giusto se ne vada, molti azzurri in calo dopo il titolo mondiale insegnano. Ma sì, vale quanto ho detto prima. Poi ho una mia personale convinzione: Mourinho è un allenatore che, ho già detto anche nei giorni scorsi e più volte in passato, forse anche troppe, è un allenatore che non ti chiede solo le gambe, il cuore, il cervello, ti chiede l'anima, e credo che allenatori di questo tipo, come era d'altra parte Arrigo Sacchi, non possano rimanere con risultati concreti proficui in maniera redditizia più di 2-3 anni al massimo in un club. Poteva ballarne ancora uno, ma non di più, secondo me. Questa è sempre una mia convinzione, non so se la condividete o no. Adesso, prima di tornare agli ascoltatori, vorrei invece, noi che siamo radio estremamente attenta e continueremo ad esserlo con estremo piacere alle cose del basket, non possiamo continuare a parlare di Mourinho, Real Madrid e di queste cose quando c'è uno scudetto in ballo nel basket da noi, e c'è soprattutto una semifinale che è già disegnata da ieri sera ed è Milano-Caserta, anzi Caserta-Milano, perché il fattore campo toccherà ai campani. La partita di Milano ieri sera è stata raccontata per Sky da Jerry De Rosa, mio amico. Ciao Jerry. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Semifinale disegnata, dunque, dicevamo, scontata secondo te? Poi andiamo sul fallimento di Roma, ma scontata la semifinale che vedremo oppure no? Scontata a favore di Milano, che dovrebbe avere i favori del pronostico al di là del fattore campo, o no? Dici, ma non lo sono così sicuro, perché Caserta mi sembra che anche nel corso di questa serie di playoff ha acquisito sempre più fiducia nei propri mezzi, sempre più maturità, anche i giocatori americani hanno, diciamo, trovato maggiore confidenza col clima playoff, partita dopo partita. La prestazione di Jumaine Jones di ieri mi sembra la testimonianza. Io credo che andare a vincere a Caserta è difficile per qualsiasi squadra, e lo sarà anche per Milano. Milano una partita là dovrà vincerla sicuramente. C'è sempre l'incognita della formula, che secondo me sta condizionando molto questa nuova proposta, almeno per la Serie A, di due partite in casa della miglior classificata, poi due in trasferta, la bella. Mette molta pressione secondo me sulle squadre di casa, in particolare in gara 2. E credo che Milano, da squadra esperta, potrebbe sfruttare questo. Però, diciamo, in partenza io credo che Caserta si presenti meglio questi playoff, tanto più che avrà una settimana di tempo per riposare. Anche in questo senso la squadra un po' meno lunga che ha Caserta rispetto a Milano potrebbe non essere un problema per gli uomini sacrificati. Certo che per Roma l'unica parola possibile, l'unica parola corretta è fallimento, perché fuori, dopo gli investimenti, per l'ennesima volta fuori al primo giro di valzer dei playoff, non so come verrà metabolizzato questo nella capitale da Toti. Policioli ha già detto: spero di poter rimanere per continuare un lavoro cominciato quest'anno e che può essere un investimento per il futuro. Sei così convinto che sia un investimento per il futuro questa stagione di Roma? Ma io, se fossi io a dover decidere, io non avrei dubbi a confermare Bonicioli. Non dimentichiamoci che è arrivato con la squadra che era molto più vicina alla zona retrocessione che ai playoff, e Bonicioli, i risultati lo dicono, almeno per quanto riguarda la regular season un buon lavoro lo ha fatto, ha ottenuto il primo obiettivo che era quello di salvare il diritto di Eurolega. Non dimentichiamoci che fosse rimasta fuori dal playoff Roma avrebbe perso anche la licenza triennale in Eurolega. Poi è arrivata a questi playoff pagando il settimo posto e l'incrocio con Caserta, cioè comunque un incrocio molto difficile. Nelle prime due partite, avesse vinto Roma, nessuno avrebbe avuto niente da dire, però ha pagato la clamorosa discontinuità di questa squadra, ieri poi invece si è dimostrato che la più forte è la Caserta, perché ha un giocatore assolutamente eccezionale che nessuno ha secondo me nel nostro campionato adesso, cioè Jumaine Jones. Si tratta indubbiamente di fallimento per la Lottomatica, che secondo me dovrebbe un po' interrogarsi sull'aspetto quantomeno organizzativo, sulla necessità di portare a compimento, quantomeno di progettare qualcosa un po' più a lunga scadenza, sì, senza spaltare tutto, non dico anno dopo anno, ma mese dopo mese, cosa che a Roma, ma non solo a Roma, non è mai stato fatto negli ultimi anni. Poi alla fine i risultati si vedono, inserendo nuovi giocatori in corso si può anche andare bene e poi magari arrivare in semifinale un anno o anche in finale un altro anno, ma se ogni anno ricominci tutto, certo, certo, poi la continuità non la trovi assolutamente. Non la trovi mai. Grazie Jerry, buon lavoro. Grazie a voi, a presto. A prestissimo, grazie a Jerry De Rosa. Venerdì naturalmente ci sarà Palaspicchi, vi aspetto qui dalle 2 alle 3 e sarà con noi Danilo Gallinari in questo studio per rispondere alle vostre telefonate, soprattutto. Daniele da Biella, chiudiamo il programma. Buonasera. Buongiorno. Buongiorno, dottor Genta, buongiorno, e complimenti buongiorno per tutto. Due parole velocissime, volevo una sua opinione sulla pallacanestro Biella dopo anni appunto in crescita, culminati direi lo scorso anno con le semifinali playoff, quest'anno salvataggio agli ultimi 10 secondi e ci sta dell'ultimo quarto, e ci sta perché l'obiettivo negli anni è sempre stato salvarsi, però così due parole. Sì, no, ma guardi, io ho l'impressione che Daniele, io ho l'impressione che Biella abbia pagato il prezzo, no, quest'anno, prezzo dell'Europa, perché non è importante se è Eurolega o se è Europa Cup o se è un'altra coppa. L'Europa richiede comunque dei sacrifici non da poco, richiede delle fatiche non da poco, e credo che quest'anno Biella abbia pagato il conto della straordinaria stagione vissuta l'anno scorso. Mettiamoci anche un po' di sfiga, perché così è andata, con Fred Jones che si è fatto male subito, con Diaz che si è fatto male poi. Insomma, è stata una corsa a ostacoli, una corsa ad handicap che non poteva che finire con un'ultima partita all'ultimo sangue, con questa salvezza conquistata. Direi che non c'è stato niente di impensabile o di clamoroso. Più che altro Biella, a proposito di programmazione, è comunque una società in grado, con i suoi mezzi, di programmare per bene. Andate a vedere i palazzetti in giro per l'Italia e poi lasciate quello di Biella per ultimo e ditemi qual è il più bello in assoluto, oltre che il più nuovo. Adesso ci fermiamo, chiudiamo il programma, domani riprendiamo tutte queste discussioni dalle 2 alle 3. Grazie a Franco Piantanida per il lavoro in redazione e a Filippo Aureggi in regia. Buona giornata.